strada. E quindi ho fatto ma una scuola bus un turismo. Allora io vai di là. Aluide che ha su in area, aluide se. E tutta cosa mi ha lasciato mamma già, non mi deve sposare nulla, quindi mi ha ripreso tutto il mondo. E poi la mostrare già, non mi ha rilasciato la licenza, erano del tutto, ero potuto pensare quello e comprare il Pullman grande, capito? E tenere fare, e me lo devo tentare a me perché le licenze nazionali e internazionali sono le mie, capito? E quindi devo usare sempre che sorridere a provato che nemmeno fuoriare se l'hanno subito. E là, speriamo che vada tutto bene già, che ci siano, ci sia un bel po' di lavoro. Quando decidiamo tutti i CB di fare una bella gita, lo chiediamo a te, così ce lo fai gratis, il trasporto. Certo, già là, sappiamo che è il guido io però. Capito, glielo detto, se partiamo bene, arriviamo bene, capito, cosa che ci siamo messi, non fare uscire i binari, glielo detto, queste sono cavoli suoi, ok, fai girare, già. Io sono andato a cercare un po' che devo dare un indirizzo di un radioamatore di Rodrigo, di Andrea, vicino a Roma, che c'è in questi ricevitori, però io non ho potuto modulare perché ero impegnatissimo, l'altra sera ero facendo un servizio all'aeroporto con un pullman di un amico mio e quindi io l'ho avuto, capito, non c'era parecchio aspetto. Ah, perché ti puoi servizio stai facendo? Ho fatto un favore a uno che era malato, ma era solo una corsa, perché poi c'aveva gli altri, perché gli altri erano impegnati altrove, in cui ho fare una roba, cioè non lo posso neanche fare già, capito, fare così, così, diciamo, no? Perché bisogna fare una prassi, però è stato una, un tre ore di coso che ero fermo, che non fa così tempo, meno di un'ora ho risolto la cosa, no niente, questa è roba mia già questo che ho comprato per lui e speriamo che non mi crei problemi perché nella mia vita già ne ho avuto tanti problemi, non pigliere di suo e creare altro. Vabbè già, se parti non puoi sbagliare, tu parti vincente, devi partire vincente. Se tu parti con l'ottimismo vedrai che le cose vanno bene, se sei pessimista all'inizio, cazzarola già. È come il fatto che dici che sei vecchio, naturalizzare me, ma io non mi sento così vecchio. Mi dispiaceri già, perché non mi fa caricare. Il dispiacere di mamma mi ha, guarda, proprio mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato, sono anche le buone commettere, le parole sono anche le mie, ho chiesto, lo sto facendo, tu sta qua a fare la posta, stavo parlando con questo, gli ho detto di muro, so perché sono morto, non conosce, a Gianni Carta sono io, ho detto, trasporto a Cagliari, è una bellissima donna, cioè, aspetta, perché la vita è anche della moglie, lui è maresciallo di tutto l'esercito, però è in mezzo alla vita di questa roba, non so come, però è questa taglia sicuramente Irina, ma guardate cosa con me, come se non la conosco, ero un anno a Cagliari, ma che lunga, non è così già, mi sono seduto in questa barca, mi sono... Paga, ma fai girare da Gianni che se no magari si annuia la gente. Avanti chi è rimasto? Yeah, ciao Gianni Cappellù, Luca qui da Porto Torres, che ti colga Lisa. Come mi ascolti? Gianni, fa la cortesia che sto trovando una radio. Ti ascolto bene, bene, bene, bene. Chiaro, limpido, recuaro. Che cosa ha fatto fuori che però non sa quello che la pensa l'altra gente. Ascolto, Santiago 7 e la radio è 4 e non è molto forte, però è comprensibilissima. Io già lui, con le scuse sempre. No, ma per il coso non ti preoccupare, auguri comunque, ti dico. Ho sentito la notizia, quando sono cose che servono per, queste sono cose belle, piacevoli, sono delle così, di buon augurio. Allora, Sì Gianni, vediamo un po' se ho posto Gianni KP2, grazie Gianni anche a Dr. Rumus. Vediamo un po' se aumento qua i mitigeni, se aumenta qualche cosa. Ecco, prova a vedere, perché c'è del mitigeni a metà. Vedi se ha cambiato qualcosa. Cambio. Eia, eia, adesso è bello forte, l'amplificazione si sente. Ma non se la cava così, non capisco, come gli arriva il tubo, saliamo tutti quanti a muro, si avverso. Fatti le femmine la fuori già, fatti le femmine, già brindate, posso. Tanto non si eccola, si pensa già a femmina. Oh, dimmi qua. Sono superato, siamo a 141 già, cosa faccio? Vediamo un poco cosa dice fino all'ultimo, adesso sto un attimino, adesso stavo appunto facendo quell'operazione là perché diciamo la non era abilitato qua, ecco. 131 141. Allora qui non è aggiornato, aspetta un secondo. Sì, sì, perfetto, 21. Poi saliamo ancora un pochettino, fino a quella cifra che avevamo detto. E vediamo un po' se manca. Magari, ok, per il momento non fa. Se senti a Coslo, per esempio, a Palacurcio. Che rompi i coglioni. Lo posso fare, non è corretto stare in un telefono in radio. Comunque, e può venire anche a casa. Per il momento un abbraccio a tutti. Ciao Gianni, a presto. Ciao Gianni. No, stavo salutando a, come si dice, a Gianni Cattivo, aspetta un secondo, ecco qua, allora ecco qua, perfetto, non c'è così, no? Io adesso le lancio, tanto che non volevo avere 141, le butto 145, poi vediamo sino alle 17.07, cosa mi dice? La pagherò. Claudio, ti conviene aspettare all'ultimo momento. Ma mi devo prendere il culo, capito? Faccio, vediamo, se più di 141, minchia. Non se ne fa per niente, vabbè. Dai, lui io ci provo, poi vediamo, sino alle 17, eh? Aspetta, gli rispondo, tanto Gianluca. Ciao, un attimino, Gianluca. Ragazzo, sì, vai, sto prendendo qua io anche un led, sto con un attimo da tenere qui. Cap. Capri 3. Capri 2, Capri 1. Capri 2, Capri 1.